Radio 24 Reportage. Hashtag Covid-19. Storie di eroi per caso. Librai a domicilio. Di Teresa Trillò. C'è chi durante il lockdown ha consegnato i libri in bicicletta e chi a piedi. Nell'anno nero della cultura, i proprietari delle piccole librerie indipendenti, 2400 in tutta Italia, si sono rimboccati le maniche e hanno affrontato la crisi macinando chilometri per tenere in vita i piccoli negozi di libri aperti nei centri delle città e nei quartieri più periferici. Mattia Garavaglia, 31 anni, una laurea in storia, da 4 anni ha aperto la libreria del Golem a Torino. Il lockdown non lo ha spaventato né paralizzato, nonostante le librerie chiuse non si è dato per vinto e ha unito le sue due grandi passioni, libri e bici, consegnando così a domicilio tutto quello che non si poteva più acquistare direttamente in libreria. Ho fatto, sì, in realtà la cosa più semplice che esista, se la gente non può venire in libreria vado io. Easy. La bicicletta è il mezzo che utilizzo più costantemente io, diciamo che la mia è un po' una monomania, quindi ho unito due cose che mi piace fare molto. Una devo farla perché sennò non vivo, l'altra la faccio perché mi piace, e è stata proprio la somma più facile che potessi fare. È andata molto bene, a livelli che non riuscivo a fermarmi. È stato pesantissimo perché ho lavorato 14-15 ore 7 su 7. Mi sono organizzato semplicemente che ho detto con una foto semplicissima: se volete contattarmi fatelo pure. In realtà, prima ancora che chiudesse il lockdown, anche perché noi come Piemonte siamo ancora più, cioè siamo stati chiusi prima di tutti, e io cosa facevo? Semplicemente andavo ogni giorno in libreria, costruivo i pacchi che dovevo portare, li portavo in bici fino a che non cedevo fondamentalmente. Facevo le 50 consegne al giorno più una 10, 15, 20 spedizioni al giorno. In quel momento lì era proprio essere su un treno, non si guarda in nulla. L'idea non è andata male. Durante il lockdown io ho moltiplicato il fatturato. Il discorso è che quando ci sono situazioni del genere bisogna mettere un pochino la volontà sul piatto e ci si sacrifica un attimino, avendo partita IVA si fa quel che si deve. E poi da quello che si è seminato, effettivamente, poi dopo il lockdown, la gente a cui io ho consegnato è tornata in libreria e ha formato una nuova base della libreria, rendendola più solida. Il post lockdown mi ha permesso comunque di assumere una persona, quindi direi che male non è. A Roma, nel quartiere Garbatella, poco distante dal centro storico, c'è la libreria Eco di Fata, riservata ai giovani lettori. Da 5 anni, Francesca Magliole e Francesca Proietti vendono libri per bambini, organizzano corsi e letture pomeridiane. Un lavoro azzerato dal lockdown, e così, per superare le difficoltà, hanno percorso decine di chilometri a piedi per consegnare libri e favole ai giovani clienti del quartiere, racconta Francesca Magliole. Non nascondiamo che il giorno in cui abbiamo abbassato la serranda avevamo intuito che la cosa non sarebbe stata di breve corso. Noi siamo in due a gestire la libreria, con due caratteri diversi e quindi con due reazioni diverse alla situazione. Ci siamo presi un po' di tempo di reazione, per l'appunto, cercando di capire ognuno dalla propria casa come si potesse comunque andare avanti. Non nascondiamo pure che abbiamo avuto tanta solidarietà dal quartiere, tanta vicinanza, sia proprio affettiva sia anche da un punto di vista economica, nel senso che si è creato un sistema per cui magari sono stati fatti dei buoni di acquisto nel periodo della pandemia, che poi sono stati effettivamente spesi una volta che a fine aprile abbiamo potuto riaprire. Come vi siete organizzate? Nel momento in cui siamo riusciti a uscire di casa e tornare fisicamente in libreria, abbiamo creato un sistema di consegne a domicilio nel quartiere fatto da noi, e ci siamo appoggiati invece a dei sistemi di consegne tramite corriere per coprire le zone che non potevamo raggiungere ovviamente a piedi, anche perché le restrizioni in quel momento comunque erano ancora abbastanza importanti. Quello che abbiamo fatto per raccontare un po' chi eravamo, la persona che raggiungevamo, era stato quello di creare un pensiero che andasse a ogni bambino che raggiungevamo con i nostri libri. Nei vari pacchetti che abbiamo fatto c'era sempre un piccolo pensierino, un piccolo regalino, con anche una dedica personale, perché quello a cui teniamo è il legame che abbiamo con le famiglie che vengono da noi, e quello non si poteva spezzare nel momento in cui cui in realtà non ci vedevamo fisicamente, e quindi abbiamo provato a mantenerlo in quel modo. La consegna a piedi com'è andata? Abbiamo cambiato le scarpe per quanto abbiamo camminato. Qualche chilometrino ce lo siamo fatto in modo molto prudente, no? Perché anche lì la consegna era sempre con mascherina, distanziamento, guanti, pagamenti tramite bonifico, applicazioni di pagamento varie. Però è stato bello perché è stato il momento in cui effettivamente fisicamente rivedevamo le persone che prima venivano in libreria, non dico tutti i giorni, però insomma con una frequenza piacevole per noi. Quindi è stato importante farlo. Riallacciare i contatti con i clienti di quartiere non solo è stata la molla che ha spinto anche la libreria Trastevere a battere la strada delle consegne a domicilio. I mesi bui del lockdown, lo smart working e l'estate senza turisti hanno svuotato il centro di Roma e Trastevere, cuore una volta popolare della capitale, ne ha risentito, come le casse dell'omonima libreria, dice Davide Manni. Noi ci siamo ritrovati a gestire ovviamente una completa assenza di persone che passavano nel quartiere, se non quelle che vivono nel quartiere, che però diciamo Trastevere nel frattempo ha subito un po' di trasformazioni, quindi anche i nostri clienti di zona sono diventati sempre meno perché sta diventando sempre un po' più un quartiere dormitorio, bed and breakfast, di ricezione turistica più che un quartiere vero e proprio di vita sua. Fortunatamente uno zoccolo duro di clienti ancora lo conserviamo, però ci è venuto a mancare praticamente tutto quello che era il traffico di persone che passeggiavano magari nel centro e potevano essere turisti come anche romani che si facevano la passeggiata. Poi noi siamo una libreria particolare perché siamo aperti fino a tardi la sera, quindi bene o male diciamo che cercavamo di intercettare un po' un pubblico abbastanza ampio, per cui durante il giorno magari lavori più con quelli del quartiere, la sera col fatto che magari la gente va a bere o a mangiare a Trastevere riesce a intercettare un pubblico diverso. Quindi ci siamo ritrovati in sofferenza perché abbiamo avuto una perdita piuttosto alta del fatturato e abbiamo cominciato a sondare l'opportunità di fare consegne a domicilio. Ovviamente è stata un po' diciamo una goccia nell'oceano, nel senso che è stata una cosa che ci ha aiutato un po' a tenerci attivi e soprattutto in collegamento con i nostri clienti che non potevano più venire in libreria, però non è che abbia sanato particolarmente la condizione di difficoltà che avevamo in quel periodo. Come vi siete organizzati per portare i libri a casa? Per quanto riguarda tutta la zona Trastevere, diciamo Trastevere Monteverde, a volte facevo io le consegne lasciando il pacchetto semplicemente o in portineria, se c'era la portineria, oppure nella cassetta delle poste, in modo tale che poi scendeva la persona che aveva richiesto e li prendeva, e facevamo pagamento tramite PayPal. Per il resto invece ci siamo organizzati con un corriere che abbiamo contattato come librerie di Roma, abbiamo fatto una sorta di accordo per avere un po' di tariffe agevolate, perché poi la difficoltà ovviamente per una piccola libreria con il corriere è di riuscire a spuntare dei prezzi più o meno decenti, perché già noi non guadagniamo granché sui libri, poi se il costo della spedizione è pure alta. Durante il lockdown eravamo diciamo limitati come tipo di range d'utenza, perché più o meno lavoravamo molto con i clienti che erano iscritti alla nostra mailing list, qualcosa tramite Facebook, però ovviamente non avevamo un portale o qualcosa a cui ci si potesse rivolgere per fare gli ordini, quindi noi mandavamo 2 o 3 volte a settimana una mailing list con i nostri consigli della settimana e sulla scorta dei nostri consigli venivano ordinati i libri. E Book Dealer da questo punto di vista è più semplice proprio perché c'è una visibilità maggiore. A risolvere i problemi di vendita online è arrivato Book Dealer, portale per le consegne a domicilio riservato alle librerie indipendenti, nato dall'idea di 4 amici, ex compagni di classe o di squadra o in contatto per motivi di lavoro. Dallo scorso aprile, un editore, un avvocato penalista, un imprenditore e un libraio, età media 35 anni, sono soci della stessa impresa. Obiettivo di Book Dealer, racconta Leonardo Taiuti, editore di edizioni Black Coffee, è permettere alle singole librerie indipendenti o a quelle di quartiere di fare massa critica, provando a competere con i grandi store online, e con 1,90 € ci si assicura la consegna a domicilio da parte del libraio di fiducia. Durante il lockdown c'è stato un periodo in cui neanche Amazon consegnava i libri perché erano ritenuti beni di non di prima necessità, e mi sono reso conto che io, in quanto editore, ero in una posizione privilegiata perché conosco un sacco di librai e un sacco di librerie a cui posso mandare un messaggio e dire: ehi, mandi questo libro oppure mi consigli qualcosa. E ci siamo resi conto che mancava proprio un sistema centralizzato che aggregasse tutte le librerie indipendenti d'Italia e permettesse all'utente di scegliere quello che vuole, poi comprarlo presso una libreria senza muoversi da casa. Siamo partiti il 27 di agosto. Abbiamo iniziato con 120 librerie e ovviamente 0 utenti, e adesso dopo 4 mesi abbiamo più di 700 librerie iscritte e e decine di migliaia di utenti registrati sul sito. Come funziona questo servizio che voi offrite? È un e-commerce vero e proprio, né più né meno, quindi replichiamo quella che è la normale esperienza d'acquisto sugli e-commerce classici, solo che introduciamo una seconda modalità d'acquisto. Quindi c'è una modalità che prevede di partire dal libro, quindi scegli il libro che vuoi comprare, poi quando vai a fare il checkout nel carrello il sistema ti propone una serie di librerie tra quelle che consegnano a domicilio e quelle che spediscono con corriere. Quelle che consegnano a domicilio te le fa vedere se coprono la tua area, quindi personalmente viene il libraio. Il secondo sistema per acquistare è invece partire dalla libreria, quindi se qualcuno come me ha una libreria favorita, una libreria di fiducia, può selezionare prima la libreria, tenerla in memoria per tutta la durata della navigazione e poi quando ha finito di fare la spesa e di mettere i libri nel carrello se la ritrova salvata e compra presso quella libreria lì a prescindere dalla geolocalizzazione, perché chiaramente c'è sempre l'opzione di farsi spedire i libri con il corriere naturalmente. Questi mesi difficili hanno cambiato molte cose, incluso l'approccio alla lettura, spiega Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il Libro e la Lettura. Durante la fase di lockdown le abitudini di lettura degli italiani sono drasticamente cambiate. Da una parte in negativo, perché c'è stato proprio il crollo quasi della lettura come attività che noi immaginavamo compensativa delle difficoltà sociali, e invece probabilmente l'atmosfera di timore, di paura che si è diffusa durante il lockdown ha impedito la serenità che serve per poter leggere in tranquillità. Questo è confermato dal fatto che nel periodo di chiusura totale, quindi diciamo esaurita quella parte di terrore che si è creato in una prima fase, il consumo librario è ricominciato a crescere. Abbiamo visto che insieme ai consumi tradizionali sono aumentati questa volta i consumi invece da una parte degli ordinativi, degli acquisti di libri online, e dall'altra è aumentata anche la lettura in ambiente digitale, quindi è aumentata la lettura di ebook, è aumentata la lettura di audiolibri, cioè è aumentato tutto quello che, come dire, la pandemia in qualche modo ha indotto come abitudini nuove. Cioè sono cambiamenti epocali che daranno un corso diverso al futuro del consumo della lettura. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.